Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono anni che cerco di sapere quali sono stati i risultati del prestito d'onore. Vi ricordate? Il governo Prodi diede a pioggia 60 milioni di vecchie lire per nuove attività, solo per il meridione. E siccome ci sono anche i miei soldini, gradirei sapere i risultati di tale investimento. Bruno, Bergamo. Sono un insegnante di scuola superiore, uno dei pochi insegnanti che non hanno fatto sciopero, e un cittadino. Dato che sono anche un cittadino, non do un significato negativo al risparmiare sulla spesa pubblica. Così come in una famiglia è opportuno quando si tagliano spese che non danno grandi benefici. Per la mia esperienza, la scuola è un posto dove, se c'è la scelta tra fare una cosa con pochi lavoratori o con molti lavoratori, si decide per la soluzione che impiega molti lavoratori, pagati poco. Ad esempio, 1. Le compresenze. Nelle 24 ore di insegnamento elementare ci sono 2 ore di compresenza con l'altro insegnante della classe, più le ore in compresenza con l'insegnante di inglese, più le ore in compresenza con l'insegnante di religione. Io faccio circa 2 ore settimanali di compresenza. A volte ci sono degli incroci di conoscenze molto belli. Più spesso fa lezione un insegnante per volta. L'impressione è che pagare 2 insegnanti per 1 ora di insegnamento in genere non abbia una grande resa. 2. Abbiamo tantissimi bidelli in Italia. 167.000, 2,2 per classe. Occorrono un paio d'ore giornaliere per pulire una scuola. Questo si può fare pagando molti bidelli, per 6 ore giornaliere, o dando in appalto a un'impresa esterna che lavori per il tempo necessario, tenendo ovviamente alcuni bidelli per la custodia della scuola e le commissioni. 3. Per quanto riguarda l'integrazione dei disabili, in Italia vi sono circa 100.000 insegnanti di sostegno che lavorano con un disabile per volta, in genere senza grossi strumenti didattici. Il fine è inserire i disabili nella classe con tutti gli altri studenti. In tutti gli altri paesi d'Europa prevale il modello delle scuole speciali, dove vi è circa un insegnante ogni 6 alunni. Magari sbagliano tutti gli altri e sicuramente è ottimo inserire tutti quelli che sono inseribili, però quando vedo che gli insegnanti di sostegno portano i ragazzi fuori dall'aula, dato che non possono seguire il lavoro del resto della classe, penso che massimizziamo i malefici sia come costo sia come risultati. 4. Il tempo pieno è una possibilità utilissima per molti ed è importante che la Gelmini abbia riaffermato che non verrà tolto. Però quando mia sorella, che è a casa di pomeriggio, ha cercato di scegliere per sua figlia l'orario tradizionale, quello mattutino, non le hanno concesso questa possibilità perché quella scuola elementare offre solo classi a tempo pieno. Nasce un pensiero malizioso: che la scuola non sia per le famiglie, ma le famiglie per la scuola. Quindi non mi sento di dire che è sbagliato effettuare dei risparmi sul personale della scuola, però mi piacerebbe anche che fosse riconosciuta la professionalità là dove c'è, che vi fosse una possibilità di carriera, che quelli che lavorano più e meglio avessero uno stipendio decoroso e rimborsi su tutto quello che spendono per aggiornarsi. Cordiali saluti, Giuseppe. Qualche sera fa ho sentito con viva sorpresa una battuta di Giuseppe Cruciani nel corso della trasmissione La Zanzara. Si parlava del fatto che Barack Obama avesse acquistato mezz'ora di spazi televisivi in prima serata sui principali network televisivi degli Stati Uniti. Cruciani ha detto: figuriamoci se qualcuno lo facesse in Italia. E poi, con l'ospite, ha parlato della discesa in campo di Berlusconi nel 1994. Anzitutto le cifre delle spese della campagna elettorale americana sono abnormi, oltre 600 milioni di dollari per il solo Obama, e pongono problemi assai rilevanti. È una democrazia sana quella in cui la partecipazione alla competizione elettorale comporta costi simili? Quale sarà il debito morale, e non solo, del presidente che sarà eletto con i suoi grandi finanziatori? Non credo proprio che tutti quei soldi possano arrivare con le offerte di privati cittadini. Negli Stati Uniti ci sono stati 8 anni di una presidenza legata a doppio filo con rilevanti interessi economici di parte, petrolio e affini. E i risultati si sono visti. Quanto all'Italia, rimane irrisolta l'anomalia di un competitor proprietario della più grande azienda privata nel campo delle comunicazioni e con mezzi economici enormemente superiori a quelli degli altri soggetti attivi in politica. L'esempio americano dimostra proprio quanto questo tema sia essenziale e non può essere liquidato con una battuta che personalmente ho trovato poco felice. Con immutata stima e cordialità, Antonio. PS. Non sono uno di quelli che pensano che Berlusconi vinca le elezioni solo perché ha le televisioni, ma certamente in Italia si gioca una partita politica ad armi mediatiche impari. Sono stufo di vivere in un paese dove continuamente la minoranza pretende di imporre le proprie idee, ma soprattutto ti bolla come deficiente se la pensi in modo contrario, anche se cerchi di argomentarlo. Sono assolutamente convinto, al di là dei sondaggi che lo confermano, che la maggioranza degli italiani approvano in gran parte la riforma Gelmini. Il bello è che sotto sotto piace anche a molti del centro-sinistra, che però sono in pochi, ancorché autorevoli, ad ammetterlo. Il fondo di pane bianco di qualche giorno fa sul Corriere della Sera è splendido nella sua semplicità. Basta con queste strumentalizzazioni figlie solo di una pochezza di idee politiche, di un partito stretto tra una maggioranza operativa e un'altra minoranza ossessivamente, ma scientificamente, oltranzista. Abbiamo bisogno di convergenze, ma soprattutto di intelligenze politiche. Al di là di questa lettura di scenari ampi, ho un figlio che, da fuori sede, si è iscritto per la specialistica ultimo biennio universitario e mi costa un sacco di soldi tra affitto, treno, vitto, eccetera. Questi soldi vengono dai sacrifici di due genitori che lavorano e ogni mese di ritardo grava sulla nostra economia familiare. Se questo ritardo derivasse dalla vagabondaggine di mio figlio, sarebbero affari amari per lui, ma se questo ritardo dovesse derivare da una protesta tesa solo a proteggere le oscene baronie universitarie e il più importante santuario di voto di scambio italiano, allora non posso che arrabbiarmi pesantemente. Saluti, Maurizio. Ho 24 anni e scrivo da Modena. Non sono iscritto a nessuna facoltà, essendo libero professionista da 4 anni. Scrivo in merito alle manifestazioni degli studenti accadute nel mio comune. Ormai ho sentito tutto e il contrario di tutto su questa faccenda e così, quasi per provocazione, mi è venuto in mente di iniziare a intervistare i ragazzi a capo di questa manifestazione, per fortuna qui ancora pacifica. Per cominciare, mi sono ben documentato con dati ufficiali trovati sul sito del governo e del Ministero della Pubblica Istruzione e successivamente ho cercato gli organizzatori. Grazie a un'amicizia con uno di questi sono riuscito a sentirli praticamente tutti. Ho fatto domande in merito alla riforma, senza opinioni personali, ma cercando di capire cosa, secondo loro, essa dicesse. Domande semplici e non tendenziose, cercando di essere il più imparziale possibile. Sapete cosa ho scoperto? Che il 100%, e ripeto, il 100% degli intervistati sapeva solo vagamente quello che c'era scritto sulla vera riforma. Tutti si appellavano o prendevano spunti da discorsi di politici o di siti di parte o addirittura frasi di altri ragazzi. In conclusione, mi chiedo come si può attirare tanta gente nelle piazze e nelle strade, parlare davanti a loro di proteste e di occupazioni varie, senza sapere contro cosa effettivamente si protesta. So che il mio esempio rimane esclusivo della mia città e ridotto alla cerchia di queste persone, ma non credo siano le uniche, purtroppo. Che cos'è? Il documentarsi è passato di moda? Distinti saluti. Jacopo. In questi tempi si sente parlare per l'ennesima volta della cassa integrazione per la Fiat. Mi sembra giusto che in tempi difficili lo Stato vada in soccorso di chi in quel momento si trova in difficoltà, con il rischio di chiudere la baracca e mandare a spasso tutti i lavoratori, senza parlare delle ripercussioni sull'indotto. E tutto ciò naturalmente avviene con i soldi del contribuente. Quello che invece mi sembra assai meno giusto è che, passati i momenti di difficoltà e ripristinata la situazione in modo normale, e cioè riportando la società in guadagno, quel guadagno entri poi nelle tasche degli azionisti senza problema alcuno, secondo il noto detto, chi ha avuto ha avuto, e scordammoci o passato. Suggerirei pertanto ai governanti, sempre alla ricerca di risorse, di fornire sì l'aiuto quando occorre, ma sotto forma di prestito, e non di regalia, in modo tale che, passate le vacche magre e tornate quelle grasse, il suddetto prestito venga debitamente restituito alla collettività, anche a rate, ed eventualmente senza interessi, con modalità da definire caso per caso, restando ovvio che se le cose andassero definitivamente male, il prestito sarebbe perduto e il contribuente rassegnato. Fabio. Spettabile redazione. È mai possibile che in Italia non si debba arrivare all'abolizione di quella barbarie, che è la caccia? Come ci si può divertire nell'esplodere piombo su un animale innocente, magari un uccellino di pochi grammi? Spesso poi, dei veri e propri delinquenti arrivano a sparare a specie protette o a qualunque cosa si muova. Quando i cacciatori si impallinano tra loro è sicuramente un momento di soddisfazione. Ancora oggi, nel 2008, lo Stato non vuole abolire la caccia, per non colpire le industrie produttrici di armi o forse per non perdere un pugno di voti dei cacciatori. Combattiamo tutte le barbarie: caccia, vivisezione, pesca a strascico, reati ambientali, altrimenti distruggeremo l'intero ecosistema. Guglielmo. Caro Guglielmo, non sono un cacciatore e istintivamente sarei portato a darle ragione, ma bisogna stare attenti alle reazioni troppo istintive e ai ragionamenti facili. Sì, certo, la caccia muove tanti interessi economici e non va dimenticato che in questo settore l'Italia ha grandi tradizioni di fabbriche d'armi. Certo, l'industria potrebbe continuare a produrre fucili per il tiro a segno o tiro al piattello, ma la caccia non è tanto uno sport quanto una passione e sicuramente molti cacciatori non accetterebbero mai di rifugiarsi negli stand dei poligoni di tiro. E allora la caccia va certamente regolamentata, va drasticamente vietata ogni forma di inutile uccisione, ma laddove si rispettino le regole, fare di ogni erba un fascio è probabilmente sbagliato. Regole dure fatte rispettare quindi, ma soprattutto una grande opera educativa per rispettare le persone innanzitutto, ma anche gli animali e l'ambiente. Gentile direttore, ascoltando alla radio le lettere sulla riforma Gelmini, non ho potuto fare a meno di inserire anche la mia voce. Sono mamma lavoratrice di 3 figli, una frequenta l'università e contemporaneamente fa la commessa in un negozio, uno frequenta l'ultimo anno di perito aziendale, la terza, grazie a questa scuola disastrata, non si è voluta presentare all'esame di maturità ed ha passato un anno di crisi profonda. Noi siamo una famiglia molto unita e abbiamo cercato di aiutarla in tutti i modi. Ora lavora ed è ben retribuita, ma in noi rimane un vuoto per gli studi non conclusi e pensare che ha sempre voluto fare la giornalista. La scuola, con il passare degli anni, è peggiorata in tutti i sensi. Dalla creazione del modulo ai presidi senza più quell'autorevolezza che li distingueva dalla semplice insegnante. Vorrei solo dire al corpo docente che la scuola non è nata per creare posti di lavoro, ma per avere degli insegnanti che trasmettano ai giovani che gli vengono affidati il sapere, l'educazione, la preparazione dell'adulto di domani che sappia affrontare il mondo del lavoro con le sue sfide. Ben venga il decreto della ministra Gelmini sul voto in condotta, sullo studio dell'educazione civica per tutti. Bisognava intervenire presto, altro che 68. Le voglio descrivere alcuni esempi. Un insegnante del liceo classico pretendeva di fare la sua ora di ripetizione di matematica alle 7 del mattino, un'ora prima dell'inizio della scuola, per non dover ritornare al pomeriggio come prescriveva il suo orario. Un'altra, di latino, tra un ripasso e l'altro usciva per una puntatina al bar e spesso faceva lezione ubriaca. Quelle insegnanti dovevano essere rimosse. Certo che protestano. Anche se lavorano male, il posto statale è assicurato e i sindacati difendono i lavoratori pubblici per non perdere un bacino di voti. Tutto qua. I miei figli non hanno manifestato, si sono informati e hanno ritenuto che tutta la bagarre inscenata sia stata creata ad hoc contro il governo Berlusconi, come con la riforma Moratti. Chiaro, no? Con stima, Alena. Cara Radio 24, cosa ne pensate del fatto che lo Stato abbia investito molte risorse per preparare insegnanti specializzati in questi ultimi 9 anni con corsi post laurea di 2 anni e poi decida di non assumerli? E decida invece di mantenere un corpo docente demotivato e stanco, la cui età media è la più alta d'Europa? Così non c'è ricambio generazionale nella scuola come in molti altri settori. Sembra che questo Paese abbia deciso di fare a meno dei giovani. Questo è davvero un grande spreco. Tiziana. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.